E allora, come annunciato, abbiamo un'altra corrispondente ed è una lavoratrice OMSA attualmente in distacco sindacale. Ciao Samuela, ci senti? Ciao, sì, vi sento benissimo. Ciao, ben trovata. Senti, si è parlato insomma dell'OMSA nelle ultime settimane, però volevamo insomma chiedere a te intanto di aiutarci a ricostruire un po' tutta la vicenda nel lungo periodo. Sì, è un lungo periodo perché ormai sono già 2 anni di lotta veramente estenuante contro un'azienda che di fatto ha deciso di delocalizzare, è una cosa che aveva già deciso nel 2001, delocalizzare le sue produzioni in Serbia, ma anche se in quel momento c'era stato comunque la rassicurazione che avrebbe delocalizzato soltanto le produzioni a basso valore, cosa che invece così non è stata. Noi ci siamo trovati nel 2009 appunto dove l'azienda ha cominciato a fare cassa integrazione, specificando il fatto che le vendite erano calate, e quando poi invece dopo un anno di cassa integrazione abbiamo scoperto che mentre noi facevamo cassa integrazione in Serbia i dipendenti erano passati da 1500 a 1900 dipendenti, quindi non è vero che c'è una crisi di vendite, se quello che produci qua lo produci in Serbia comunque lo continuerai a vendere, però hai deciso di produrlo in Serbia perché il costo del lavoro è più basso e perché comunque in Serbia il governo dà un sacco di sovvenzioni, però diciamo che questa non dovrebbe essere una motivazione del fatto che appunto le aziende si lasciano andare all'estero. Di fatto questa azienda ha voluto comunque procedere alla cessazione appunto dell'attività a Faenza e ha promesso una riconversione. Questa riconversione voleva dire che l'azienda si impegnava, la Golden Lady si impegnava a trovare nuovi imprenditori per poi riconvertire il sito con altre produzioni, quindi non avremmo più fatto calze, e rioccupare il personale insomma che era occupato, quindi si parlava di 350 persone. Questa cosa invece non è mai avvenuta, nel senso che l'anno scorso l'azienda si è prepaventata degli interessamenti da parte di qualche imprenditore, ma che poi si sono rivelate veramente delle clamorose balle, perché proclamava che c'era l'IKEA interessata a venire a Faenza, cosa che invece alla fine si è rivelata proprio falsa, quindi l'azienda ha portato anche dei documenti falsi firmati al Ministero, quindi non si è preoccupata di prendersi beffa né in primis degli operai né delle istituzioni né anche del Ministero stesso. Ad oggi, dopo diciamo un anno e 10 mesi, ha ormai pochissimi giorni dalla scadenza della cassa integrazione, il secondo anno perché scade il 14 marzo di quest'anno, ci troviamo di nuovo in una situazione dove l'azienda all'ultimo incontro fatto il 23 di dicembre aveva paventato di nuovo un interesse che però si era fermato per motivi economici, finanziari, e quindi ci eravamo lasciati appunto con un incontro già prefissato per il 12, quindi giovedì per questo, e il 5 che si dovevano incontrare le istituzioni con questo interessato, diciamo, per capire qual era il motivo vero, se si poteva sbloccare questa trattativa. Di fatto quel giorno lì l'azienda, intanto che era con noi al Ministero a parlare di queste cose, stava già scrivendo una lettera dove ci ha annunciato tramite fax il 27 di dicembre che è intenzionata a licenziare tutti i dipendenti OMSA, quelli rimasti, alla fine del periodo di cassa integrazione. Quindi veramente un'azienda che è quello che noi abbiamo sempre dichiarato, un'azienda becera, arrogante, che non si è mai meritato tutto quello che invece è stato fatto nei suoi confronti, gli si è voluto dare da parte di qualcuno una credibilità che questa azienda non ce l'ha. Questa azienda l'unica cosa che gli è sempre interessato è vendere quel capannone, messo in una posizione strategica perché è lungo l'autostrada da Bologna a Ancona, quindi una pubblicità gratuita tutti i giorni, che non gliene frega assolutamente nulla di riconvertire il sito e rioccupare il suo personale che l'ha arricchita, che ha fatto sì che diventasse anche il colosso che è, perché la Golden Lady detiene il 55% del marchio in Italia, ha grandissime altre marchi oltre l'OMSA, la Philippe Matignola, sì, la Golden Lady, Arva, Serenella, ha tutti i Golden Store, i Golden Point, sono tutti suoi di proprietà, quindi è un colosso veramente. E che sta dicendo invece che se ne vuole andare da questo territorio lasciando nulla, con o senza un accordo sindacale, con o senza una riconversione. Quindi noi appunto abbiamo chiesto il ritiro di questa lettera, fortemente l'abbiamo chiesta sindacalmente, anche con l'appoggio delle istituzioni, di chiedere il ritiro di questa lettera di licenziamento, perché in un momento dove se c'è una trattativa ed è vera, non si può pensare che un'azienda si muova in questa maniera. Purtroppo la notizia di oggi pomeriggio, proprio per chiudere in bellezza la giornata, direi che invece questo incontro del 12 è stato spostato. È stato spostato dal Ministero senza avere una data precisa, e quindi ci troviamo di nuovo in una situazione in cui veramente anche a livello proprio con le persone non si riesce più a reggere una situazione del genere, perché comunque qui risposte non ce ne sono, e l'unica cosa vera che diamo in mano è una lettera dove si dice che alla fine della cassa integrazione licenzierà tutti, quindi è una cosa veramente vergognosa. La verità è che voi avete una grande forza d'animo, una grande carica, e quindi resistete a questo attacco che è molto forte, feroce, indegno. Però fa parte di una posizione che praticamente ha preso il mondo del lavoro. Il fatto che ci siano stati delle situazioni come quelle di Pomigliano, dei contratti come quelli alla Fiat che sono poi apripista, significa che è stato sdoganato tutta una serie, proprio un certo tipo di comportamento imprenditoriale del datore di lavoro. Cioè, è chiaro che voi avete, cioè siamo tutte con voi. Però sarà veramente dura, perché è proprio un'impostazione di sistema che si è spostata e che ha chiuso qualsiasi tipo di possibilità di contrattazione. Secondo me, questa è un'opinione personale, però dal punto di vista della contrattazione lavoratori azienda c'è pochissimo spazio, perché le aziende ormai hanno preso una deriva per cui non ha nessuna importanza il rapporto più con i lavoratori, non c'è nessuna mediazione, fanno le scelte e basta, in questo hanno le spalle assolutamente coperte al governo. Ecco, sì. No, ma è vero quello che tu dicevi, perché effettivamente ormai non si fa fatica, cioè nel senso sembra quasi che sia normale un'azienda che delocalizza e lascia al nulla in Italia. Io penso che anche questo nuovo governo deve invece cercare, almeno ho visto che a volte dice che vuole fare le cose eque, ho dei dubbi su queste cose, però dovrebbe, io ho scritto anche a Passera per dirgli intanto che se al Ministero ci si va e si firmano degli accordi, il ministro deve farsi garante di questi accordi siglati al ministero, altrimenti non ha più valore andare in una sede istituzionale a prendersi degli impegni. Ma infatti c'è anche il discorso che se ci sono situazioni come queste, dove comunque per le donne è stata già aumentata l'età pensionabile, così già dalla scorsa finanziaria, certo. Poi adesso loro hanno di nuovo riaumentato l'età pensionabile, perché quindi devi rimanere più al lavoro, poi bisogna preoccuparsi anche che le persone ci possano rimanere al lavoro, quindi uno, io non rimanga senza lavoro perché la mia azienda delocalizza in un posto più povero, secondo, se la mia azienda che non mi dica che ha 55, 56, 58 anni sono troppo vecchia e non produco più come prima, quindi perché altrimenti si fanno delle cose e poi non ci si preoccupa poi se queste persone riescono veramente a rimanere al lavoro. Inoltre, per quanto riguarda il lavoro all'estero e le delocalizzazioni, io sono convinta che se questa è la strada saremo tutti perdenti, nel senso che ci sarà sempre qualcuno che è disposto a lavorare per meno. Certo. Ci sarà sempre. Oggi ci sarà la Serbia, domani ci sarà il Pakistan, alla fine saremo noi forse italiani che saremo disposti a lavorare per meno, perché ci hanno tolto qualsiasi cosa, ti tolgono la dignità, io dico che il lavoro ti dà dignità, togliendoti questo ti tolgono veramente la possibilità di fare delle scelte per conto tuo, di poter scegliere, di essere libero di scegliere, perché uno dovrà scegliere per te, perché tu non hai più questa libertà, perché il rischio è di trovare del lavoro in nero. Poi a me mi fa arrabbiare quando a volte è successo giù nel sud a Barletta, che è caduta una palazzina e si scopre soltanto in quel momento che ci sono delle donne che lavorano a 4 euro in nero. Allora, ma è una cosa assurda, le donne in nero ci lavorano tuttora in nero, perché purtroppo non riescono a trovare dei lavori garantiti. È veramente un mangiarsi diritti tutti i giorni, questo penso che non possa essere possibile in uno Stato come diciamo noi, che deve essere civile. Diciamo che il che il problema è che relazionarsi con le istituzioni è praticamente impossibile, perché le istituzioni, diciamo, questo governo è stato messo lì proprio per fare questo, per portare avanti ancora di più questo tipo di discorso. Peggio degli altri a fare. Sì, ma è una scelta di fondo proprio, nel senso che se c'è una cosa che farà sarà addirittura mettere le mani alla revisione del mondo del lavoro, ma quando loro parlano di revisione e di riforma noi lo sappiamo benissimo a che cosa si riferiscono. Si riferiscono al fatto che i lavoratori sono assolutamente merce, non gli interessa assolutamente di quello che fanno e di dove andranno a finire, gli interessa soltanto estorcere quello che possono il più possibile, qui o in altri luoghi, e del destino di chi lavora non gliene importa niente. Questo è il problema. No, questa è la cosa vera, che la vergogna dello scorso governo, e anche purtroppo sarà anche di questo, è veramente parlare e chiedere riforme su un qualcosa che loro non sanno nemmeno cosa voglia dire. Cioè, nel senso, io cerco sempre, pur essendo di stacco sindacale, cerco sempre di non scordarmi mai che cosa voleva dire alzarsi alle 4 della mattina per una settimana intera, lavorare 8 ore consecutive con una mezz'ora di pausa, un lavoro che semmai era pulito, diciamo, che non ti sporcavi, però un lavoro ripetitivo. Cerco di non scordarmelo mai, perché comunque ti devi ricordare da dove vieni, ti devi ricordare che se la tua condizione di vita è migliorata, però ci metti un secondo adesso a peggiorare, tornare addirittura peggio di quella che mi lamentavo una volta, nel senso che questo lavoro non era al massimo, adesso invece si farebbe di tutto per tornare a avere soltanto quel minimo, oppure sentire una classe dirigenziale, che imprenditoriale, politica, che ti dice che devi fare dei sacrifici, gente che dice a te che prendi, una donna dell'OMS che fa i turni prende 1.050-1.100 euro al mese, certo. Che ti dicono a te di fare dei sacrifici, gente che prende attorno ai 18-20 mila euro al mese, cioè è una vergogna, quindi proprio non c'è il senso della misura, direi che l'abbiamo oltrepassato da un bel po' di tempo, ma non so anche questo silenzio del paese quanto rimarrà, perché io penso che quando uno perde il lavoro non è che ha perso una giacca, perde il lavoro, perde la sua fonte di reddito, quindi se domani si rischia di perdere anche una casa perché non sai più come pagarlo, le persone non hanno più niente da perdere, ma il rischio veramente siano pronte ad andare in piazza. Il problema comunque, è che guarda, poi la guerra dei poveri. Certo, ricordatevi soltanto una cosa, che l'unica strada che abbiamo è rimboccarci le maniche e non mollare noi, perché non ci dobbiamo aspettare niente, assolutamente niente. Ce la dovremmo guadagnare come abbiamo sempre fatto, purtroppo, quindi nessuno ci regalerà niente. Sì, ce la dobbiamo guadagnare come abbiamo sempre fatto, perché praticamente tutto quello che ci è stato dato viene perché l'abbiamo strappato con le unghie e con i denti. Senti, a questo proposito, in chiusura di questa testimonianza che ci hai dato, ricordiamo, si è parlato del boicottaggio, voi avete lanciato una campagna, ecco, magari aiutateci a capire, insomma, come funziona. Dicevi, OMSA raccoglie tantissime sottomarche o marche, insomma, se c'è un sito dove si possono leggere, diciamo, le marche che voi chiedete di boicottare. Certo, io specifico sempre le marche perché questa azienda è brava, diciamo, nel senso, insomma, così lato, nel senso che nella pubblicità che fa vedere anche in televisione, nell'ultima immagine, quando ci sono i marchi, ha tolto il marchio OMSA. Ecco. Nel senso, quindi sembra quasi che voglia dire che mediaticamente qualcosa gli è arrivato, che gli ha fatto male, quindi toglie dalla pubblicità che dà in televisione il marchio OMSA, come per dire non è cosa mia, quindi continuate a comprare Golden Lady, Philippe Matignon, sì, invece questi sono tutti marchi che appunto non sono marchiati OMSA, ma fanno parte sempre del gruppo Golden Lady. Noi questo boicottaggio, diciamo, questo consumo critico, l'abbiamo iniziato un anno fa e ci ha aiutato l'Italia dei Valori. Poi, diciamo, io dico la verità, per un anno è stato un po' arrancato, perché comunque non, se anche abbiamo trovato molta consapevolezza, molte donne solidali dicendoci che avevano già deciso di non comprare più quei marchi, che l'avevano già detto ai propri familiari, con questa situazione della lettera di licenziamento è esploso, nel senso che poi abbiamo visto che sono arrivati 90.000 contatti, mi sembra che ci fossero ieri, sui siti di persone appunto che appoggiavano questa campagna. A volte noi siamo stati anche attaccati, ci hanno anche detto, questo l'abbiamo visto anche in una dichiarazione che fa la FEMCA CISL di Mantova, dicendo che questa cosa loro non l'appoggiano perché di fatto rischia di mettere a rischio altri posti di lavoro. Il problema è solo uno, intanto mi viene da dire, abbiamo questa boicottaggio l'abbiamo deciso unitariamente, CGL, CISL e UIL abbiamo fatto anche una campagna il 9 di luglio unitaria. Questa azienda ha già deciso che cosa fare, purtroppo, sarà soltanto questione di tempo. Questa è purtroppo una proprietà che si vanta tanto del Made in Italy, però ha deciso di portare il lavoro all'estero, è soltanto una questione di tempo. Quindi oggi c'è l'OMSA, domani c'è già un'altra azienda di Chieti, sempre del gruppo Golden Lady, che verrà portata, che verrà chiusa di fatto, e può darsi che domani ci sia anche la sede principale che ha da Castiglione delle Stiviere nel Mantovano. Quindi questa non è un'azienda che ti dice, ti vuol far credere che se stai buono, se stai zitto lei rimarrà qui, ma lei il suo piano nella sua testa ce l'ha già. Certo. E quindi penso che queste aziende debbano cominciare anche a capire qual è il loro ruolo sociale, quindi non soltanto il loro profitto di andare all'estero e guadagnare e mettersi l'anima in pace, né semmai concedendo a noi gli ammortizzatori sociali, perché questo è quello che ci ha detto la nostra azienda, che ci concedeva gli ammortizzatori sociali. Intanto non ci concede niente perché questi soldi ce li hanno già trattenuti dalla nostra busta paga, quindi sì, non ci regala niente lei economicamente. E fare in modo che il governo cominci a prendere un po' atto, nel senso che se domani tutte le aziende italiane se ne vanno all'estero, come molti stanno facendo, perché comunque in altri paesi il costo dell'energia costa meno. Cioè, dovremmo capire in Italia che bisogna ragionare in maniera diversa, e per far ragionare così queste imprese, secondo me vale anche la pena che per loro responsabilità sociale debbano capire che se sono diventate quello che sono è perché c'erano delle persone che hanno lavorato, che hanno fatto dei sacrifici per andare a lavorare, per alzarsi la mattina alle 4, andare a lavorare tutte le settimane, semmai ci andavi anche quando avevi un po' di febbre. Ci sei andata e hai pagato per un anno intero la babysitter per mantenerti il posto di lavoro anche se avevi dei bambini piccoli, e quindi questa responsabilità loro ce l'hanno. E dal momento che invece in questo momento questa azienda fa vedere che non gliene frega assolutamente niente, anche perché le leggi italiane glielo permettono, penso che questo sia un modo perché almeno sento un po' male, perché effettivamente domani poi questi prodotti vengono continuamente venduti. Voi se andate a comprare una calza OMS, c'è scritto nell'etichetta dell'involucro di plastica prodotti in Serbia, ma a noi italiani ci costa se l'andiamo a comprare come se fosse esattamente prodotto in Italia. Quindi l'unico vantaggio ce l'ha l'azienda, quindi penso che questo invece non debba essere possibile. Deve garantire il lavoro, e forse anziché togliere i diritti agli italiani bisognerebbe stenderli a chi non li ha. Forse anche le lavoratrici serbe non sono così contente di andare a lavorare per 350-400 euro. Certo. Sarebbe il caso di estendere dei diritti anche a loro, non a togliere e togliere il lavoro alle donne italiane. Infatti, perché non prendete contatto con le lavoratrici serbe? Forse è una delle strade, perché guarda, se tu fai conto che il capitale abbia un'etica, non questo proprio non ci sarà mai. Appunto. Non ci arriveremo mai, forse a quello. Sì, forse bisognerebbe risvegliare le persone. Adesso io l'altra sera avevo visto una trasmissione che faceva vedere che questa cosa c'era stata fatta con Pomigliano, l'avevamo fatta, sembra Santoro, anni fa, con la Fiat in Polonia, che però loro dicevano che sarà una situazione che ci si arriverà, prima o poi anche loro si sveglieranno, non decideranno che 400 euro al mese sono pochi. Certo. Capisco che però nella loro situazione, in una situazione di povertà estrema, semmai quello ti dà effettivamente un futuro. Il problema è quello, nel senso che noi non abbiamo mai voluto fare una lotta con le donne serbe, nel senso che se facevano lavorare loro, lavoravamo noi, per noi continuava ad andare bene. Il problema adesso è non tanto fare risvegliare loro, secondo me bisognerebbe risvegliare un governo che decide di agevolare le aziende a rimanere in questo paese, fare in modo che le banche non gli vengano dati soltanto garanzie alle banche, ma le banche aiutino veramente le aziende che sono in crisi. Non è la situazione della Golden Lady, ma ci sono molte aziende anche qui nel territorio Faenza che stanno chiudendo perché le banche non danno più aiuti. Io penso che bisognerebbe risvegliare anche un certo stato civile, proprio l'educazione civile nel nostro paese che si è venuta persa, sembra tutto che ormai vada bene tutto e non, nessuno si indigna più delle cose che non vanno bene. Io penso che in questo momento i lavoratori si sentono molto uniti, nel senso che di garantiti ormai non c'è più nessuno, soprattutto i lavoratori sono una merce, come dicevate voi prima, quindi si guarda alla merce che costa meno. Io penso che noi ci dovremmo muovere come cittadini, come lavoratori in generale, perché comunque questa situazione farà diventare più poveri tutti quanti, non è che arricchirà, forse qualcuno si arricchirà, ma il ceto medio-basso si impoverirà tutto totalmente.